1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:18 minuti, cari italiani, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di quello che è successo a Napoli con l'uccisione di Davide Befulco e le vicende, le polemiche annesse, l'uccisione da parte di un carabiniere. Oggi ci sono sviluppi anche questo, su questo tema sui giornali. Avremo ospite tra l'altro il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sarà con noi alle 8:45, così come avremo ospite il legale, l'avvocato Fabio Anselmo, che segue la famiglia della vittima. Avremo ospite anche Luigi Bobbio, ex sindaco di Castellammare, oggi è giudice, che invece ha ha creato polemiche per la sua visione netta quando ha scritto su Facebook: la vera vittima di tutto questo è il carabiniere. Parleremo anche di Islam, parleremo di guerra di religione. Questo dalle 9 avremo ospite tra gli altri Giuliano Ferrara. E ora andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 9 settembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così: maturità e lavoro si cambia. È un'intervista al ministro all'istruzione Giannini proprio nei giorni in cui riparte la scuola. Corriere della Sera, gli ultimi dossier di Cottarelli, ultimi perché ormai è accertato, Cottarelli lascerà e tornerà a Washington dopo aver finito il suo lavoro di segnalazioni su come tagliare la spesa pubblica. Repubblica, Tasi, ecco i costi per 7 famiglie su 10, è più cara dell'IMU. E così Libero, guida per sopravvivere al bordello Tasi e Tari. Lavoro, il piano di Renzi, nuovi assunti licenziabili, così apre La Stampa. Mentre il Fatto Quotidiano, la guerra di Luca Montezemolo contro Marchionne. Per il giornale, Putin chiude i cieli e il portafogli. Mentre Avvenire dedica la prima pagina alla strage. Questa è la parola che viene utilizzata per l'uccisione di 3 suore in Burundi, una strage e un seme vivo. Questo è il titolo di prima pagina. L'apertura del Messaggero invece: tagli, ultimatum ai ministeri. Come detto, però, io vorrei partire proprio dalla tragedia di Napoli. Oggi su Repubblica Concita Sannino riesce a raccogliere le prime dichiarazioni del carabiniere che ha sparato e ha ucciso Davide Bifulco a Napoli. Il titolo di pagina 18 è questo: chiedo perdono ai parenti di Davide, è stato un incidente, non sono un Rambo. Per la prima volta, tramite il suo avvocato, rilascia una dichiarazione a Repubblica e che è questa: sono addolorato, con pudore voglio dire alla famiglia di Davide che chiedo perdono per questa perdita, consapevole che niente, nessuna parola potrà attutire il dolore che segnerà per sempre anche la mia vita. Poche parole. Così il carabiniere che ha ucciso il 17enne Davide Bifolco parla a testa bassa, pare provato, affida questa riflessione a Repubblica. Io so, continua il militare, 32 anni, cresciuto in un paese contadino della provincia campana. So che però questa tragedia è stata la conseguenza impensabile, umanamente inaccettabile, di un incidente. Solo un terribile incidente. Non ho mai puntato la pistola, ho alle spalle oltre 10 anni di lavoro anche a Verona. Se avevo il colpo in canna quella notte è perché io e il mio collega inseguivamo un latitante. Non sono mai stato un Rambo, non ho mai neanche immaginato di puntare la pistola. Sono inciampato quella notte mentre bloccavo l'altro giovane che si divincolava. Se si fa una perizia si vedrà che lì c'era un gradino. Certo, questa è la dichiarazione che però non calma, almeno perlomeno, gli animi. Ci sono state, come racconta Libero, anche delle azioni sbagliatissime, anche molto gravi, come quella di identificare il presunto carabiniere in questione nel volto di un altro carabiniere che è stato postato da qualcuno su Facebook con la dicitura carabiniere assassino, al di là del fatto che, voglio dire, l'azione in sé. Ma poi hanno messo la foto di un altro carabiniere e infatti Libero titola così: caccia al carabiniere, una foto sul web, ecco l'assassino, idea criminale, scrive Libero, e sbagliano pure persona. E tra l'altro Libero fa notare a pagina 9, ma tutti i giornali dedicano ovviamente ancora tante pagine a questo tema di cronaca, fa notare a pagina 9 un'analisi del fratello di Davide, Tommaso Bifolco, il fratello che inveisce in TV è ai domiciliari. Questo è il titolo di pagina 9. Rita Cavallaro racconta che Davide, che è morto, una certa Napoli esibisce la sua tragedia e Tommaso Bifolco, il fratello della vittima, ha 32 anni agli arresti domiciliari perché a giugno del 2013 con altre 7 persone è stato accusato di 13 furti in appartamento in varie città e anche il fratello Alberto era stato incastrato. Oggi Alberto ha l'obbligo di dimora notturna, così ha potuto partecipare al corteo in onore di Davide e scatenare la propria rabbia contro gli uomini in divisa. Sua dichiarazione: lo Stato non ci tutela, la camorra sì, ha detto in sostanza, così scrive Libero, che racconta appunto il fratello che inveisce in TV, invece Tommaso Bifolco è ai domiciliari e ha improvvisato un'arringa contro lo Stato. Va bene, parleremo alle 8:15. Vi segnalo che oggi sulla scuola, poi parleremo con Mauro Meazza su Sole 24 Ore, ci sono delle novità importanti, vale a dire riparte la scuola, c'è un'intervista al ministro Stefania Giannini, ministra dell'istruzione, intervistata da Eugenio Bruno, che racconta il ministro come l'esame di maturità possa cambiare già da quest'anno. E beh, questo è l'annuncio più importante in questa intervista. Esame di maturità più legato al lavoro. Tutti i dettagli dell'intervista a pagina 3 del Sole 24 Ore. Tra l'altro in questo frangente in cui parte la scuola, Stefania Giannini fa due interviste. Viene intervistata anche da Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano, ma sul Fatto Quotidiano, come dire, si concentra l'intervista soprattutto su che cosa? Beh, sapete che Stefania Giannini passerà anche alla storia, anche per questo, è il primo ministro che è stata fotografata a seno scoperto quest'estate al mare. E allora parla del mio corpo, il topless e i voti ai prof. Mette insomma un po' tutto, le cose serie sulla riforma della scuola e anche invece la sua vicenda personale. In questa intervista di Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano racconta Stefania Giannini a proposito della foto: non mi sento una bella donna, magari posso piacere, posso affascinare, credo di essere gradevole. Mi fa certo piacere quando mi chiedete se ho mai pensato a un ritocco estetico. Vi siete accorti che la ragazza di campagna Stefania non è una donna rifatta? E non lo sarà mai, chiede il Fatto. Se il silicone o l'operazione al viso diventa una forma di schiavitù mi fa tristezza, ma se aiuta ad accettarsi meglio per me non è un tabù. Riguardo alla foto, dice Stefania Giannini, il paparazzo ha rubato un pezzo di me, si è intrufolato in casa mia perché il mio corpo è la mia casa, ne tengo cura, la miglioro, la capisco. Il prossimo anno andrò in montagna, così sarà più faticoso fotografarmi. Così il ministro all'istruzione sul Fatto Quotidiano. Ma sul Fatto Quotidiano, signori, ho scaldato l'ugola per almeno mezz'ora, perché oggi ci sono due pagine di quello che vince, stravince il premio di oggi, Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più incazzare della giornata, firmato da Adriano Celentano, lui il molleggiato, io Renzi, Grillo e la dittatura democratica. Questo è il titolo di Adriano Celentano, pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano, due pagine piene, fitte di piombo, che iniziano così. Sapete che lui scrive ogni tanto con la maiuscola. Mi scrive Travaglio: te la senti di scrivere un tuo pensiero sui gravi pericoli che corre la Costituzione? Certo che me la sento, rispondo. Poi ho pensato: ma come faccio a capire chi ha ragione? Qui sbagliano tutti. Figuriamoci io, sono re degli ignoranti. Se tu sei un re, mi scrive Travaglio, vuol dire che hai un popolo che ti segue. Che ti piaccia o no, un popolo che ti segue! Incalza Travaglio, che quindi anche lui scrive urlando. Sì, ma di ignoranti, dico io, che influenza potrò mai avere io sugli studiosi? E vabbè, poi Celentano si convince e scrive: intanto per cominciare diciamo subito che se è in atto un cambiamento il merito va a un uomo solo, Grillo. Senza di lui rischiavamo 50 anni di macerie. come quelle create dall'ipnotica cultura della democrazia cristiana, socialisti, fascisti, comunisti, senza contare l'indotto distruttivo che da questi ne deriverebbe a causa della loro tragica malformazione mentale che purtroppo, dico purtroppo, investirebbe il povero italiano che assorbendone tutti i difetti precipiterebbe a loro immagine e somiglianza. E poi insomma va avanti, Adriano Celentano parla della riforma del Senato, diamo un'occhiata in giro, ci sono solo disastri con un debito pubblico stratosferico che non si può più neanche chiamare debito, la sua fisionomia più corrispondente ormai quella del becchino. E ancora, forse più che una democrazia avrà pensato Renzi, ciò che davvero serve è una dittatura democratica. E via, e c'è un solo modo per capire quale dei sentieri è il meno sanguinoso: osservare con più attenzione quelli che per ora non sono che i primi passi di questo governo, al fine di intercettare qualche segnale ci dia almeno un'idea di cosa di quello c'è lontano. Vabbè. Oh, il pubblico, ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Alessandro Milan Ken, il guerriero dell'informazione. Eccolo, allora, cari italiani, ritorniamo alla lettura dei giornali, riprendiamo da che cosa? Carlo Cottarelli, Mister Spendi Review, ormai è ufficiale. Non c'è una dichiarazione ufficiale, ma ormai quando i giornali iniziano a scrivere così vuol dire che è vero. Lascerà, ha chiesto di tornare al Fondo Monetario Internazionale a Washington, pare che rimanga fino alla legge di stabilità, dunque metà ottobre. E ieri si è incontrato con Matteo Renzi, con i ministri, con il consigliere economico di Renzi, Joram Gutgeld, che viene dato dal Corriere della Sera come il possibile papabile successore di Carlo Cottarelli, come Mr. Spending Review. Si è incontrato per pianificare e mettere a punto ora i tagli. Spending con tagli semilineari, questo è il titolo di pagina 6 del Sole 24 Ore, racconta Dino Pesole questo vertice Renzi, Padoan, Cottarelli. L'obiettivo è tagliare i 20 miliardi annunciati proprio da Renzi al Sole 24 Ore. Per tagliarli non basta la spesa intermedia. Il vertice è definito da fonti governative preparatorio in vista degli incontri che da domani riguarderanno direttamente i titolari dei vari ministeri. L'obiettivo è quello di conseguire risparmi del 3% per ciascun ministero. E le proposte messe a punto da Cottarelli, scrive ancora Dino Pesole, stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe assicurare il suo contributo fino alla legge di stabilità, costituiscono la base di partenza per questi tagli. La fase ricognitiva preliminare servirà, come del resto in ogni fase preparatoria della legge di stabilità, a individuare la fattibilità politica delle diverse opzioni in campo. Lo stesso Cottarelli ritiene possibile tagliare la spesa per 20 miliardi, sulla carta gli spazi esistono. Cottarelli stesso ha fatto notare però come per raggiungere quella cifra non bastino certo interventi solo sulla spesa per gli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. Insomma, per 20 miliardi serve qualcosa di più. Anche Antonella Baccaro racconta sul Corriere della Sera, pagina 3, Cottarelli missione finita su Italia, a ottobre il rientro al Fondo Monetario. Il vertice ieri con Renzi e Padoan del commissario della Spending Review. C'è anche un'intervista a Piero Giarda, che è il predecessore di Cottarelli. Questo è solo un piano di risparmio sulle spese, dice Giarda al Corriere della Sera, intervistato da Lorenzo Salvia. La Spending Review è un'attività lunga e complessa, dice Giarda. È finalizzata al riordino della riorganizzazione di pezzi del settore pubblico e punta a risparmiare risorse o produrre servizi più efficienti. Per concludersi ha bisogno di orizzonti temporali di medio periodo più lunghi del mandato di un governo. In alcuni paesi come in Gran Bretagna i programmi sulla Spending Review sono trasmessi da un governo all'altro. Tra l'altro Giarda aveva in passato detto che Cottarelli era stato impaziente, lo crede ancora, chiede il Corriere. Mi riferivo alla presentazione del suo primo rapporto quando si parlò dei famosi 32 miliardi da tagliare. I lettori ne ricavarono l'impressione di un albero con tanti frutti da cogliere così, senza nemmeno il bisogno di una scala. E invece gli interventi sulla spesa pubblica richiedono sempre molta attenzione per i dettagli, ma non è stata certo colpa di Cottarelli. Però lo stesso Giarda ora dice mi sembra che abbia fatto un buon lavoro, però ci vorrà ovviamente del tempo. Staremo a vedere per quel che riguarda i tagli. Intanto cari italiani che state facendo le vostre colazioni o vi state già recando al lavoro, o siete già al lavoro, state già facendo le vostre attività quotidiane, io lo so che siete presi, come dire, in maniera concitata dal dibattito che c'è all'interno del Partito Democratico, un tema imprescindibile che allieta le giornate degli italiani, il dibattito annoso tra la maggioranza, vale a dire Renzi e il governo, coloro che sono al governo del Partito Democratico, e la minoranza, i D'Alema, i Cuperlo, i Fassina, tema veramente che spacca in due le coscienze degli italiani. Oggi c'è a questo proposito una intervista che Giovanna Casadio fa a Cuperlo, Gianni Cuperlo, che è stato anche presidente del Partito Democratico e che usa questa immagine su Repubblica, pagina 7. Le riforme di Matteo sono ancora imballate come i mobili IKEA. Intanto la premessa è: Renzi non si circondi di laudatores. Così Gianni Cuperlo avvisa il PD renziano: se vogliamo che le riforme non somiglino a uno scatolone dell'IKEA, bisogna osare. Intanto dissi a suo tempo che il doppio incarico di Renzi, premier e segretario, non mi piace. Oggi rispetto la scelta, ma quello che non può consentire è che ogni voce sgradita sia liquidata come la rincorsa di una poltrona. Sto parlando dunque di un clima che non mi piace e non fa bene a nessuno. Si riferisce evidentemente agli attacchi ad D'Alema. E poi eccola qui l'immagine dell'IKEA. Il governo ha fatto cose buone, ma ha presente l'IKEA, dice Gianni Cuperlo. Porti a casa un mobile smontato e devi montarlo. Nell'elenco di quelle riforme molti vedono ancora la scatola imballata e a quelli non puoi dire abbiamo arredato casa. Devi spiegare cosa da oggi. Cosa dai oggi e come immagini il paese tra 5-10 anni e dove lo porterai. Insomma, ho bisogno di pensare che bisogna osare, così Gianni Cuperlo. E anche il Corriere della Sera dedica una pagina a questo: la segreteria del PD, minoranza divisa, l'ala dura resiste all'offerta di Renzi, e Fassina in questo sprint ornitologico dice: non pensi ai gufi ma pensi agli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia dicendo che tutto va bene. Vabbè, almeno una certezza possiamo dare agli ascoltatori: è assolutamente falso, non esiste alcuno struzzo al mondo che abbia mai messo la testa sotto la sabbia. È una diceria bella e buona. Comunque, a parte questo, le riforme, usando e rubando a Cuperlo l'immagine, sembrano un pochino imballate effettivamente. Così racconta per esempio sempre Repubblica, con Francesco Beto, Tommaso Ciriaco, a pagina 4. Eccolo qui: le riforme a rischio rinvio. Ma come? Per esempio l'Italicum, la riforma elettorale. Roberto Calderoli dice: l'estate è passata e l'Italicum è una parola che ormai nessuno pronuncia più. Al Senato, scrive Repubblica, l'Italicum aspetta che qualcuno lo tolga dai cassetti dove giace da mesi. Siamo nella 71esima settimana decisiva. Sì, vabbè. E mentre per quel che riguarda la riforma del lavoro, che è una riforma ancora più stringente, racconta La Stampa, pagina 6, con Roberto Giovannini, Renzi ha in mente che cosa? Via la riforma, l'articolo 18 resta in piedi. Questo è il titolo di pagina 6. Niente smantellamento dell'articolo 18, niente revisione globale dello statuto dei lavoratori, via libera invece al contratto di inserimento a tutele crescenti riservato ai giovani fino ai 35 anni e alle persone con più di 50 anni. I datori di lavoro, insomma, potranno per 3 anni licenziarli senza vincoli, ma se li confermeranno riceveranno un bonus fiscale. Sì anche a 2 significative modifiche dello statuto. Le aziende potranno demansionare i loro dipendenti, cioè ridurre la loro mansione tagliando anche il salario, e potranno usare le tecnologie per controllare la prestazione dei lavoratori. Queste potrebbero essere, in sintesi, termini generali, ovviamente con il condizionale d'obbligo, racconta anche La Stampa, per il futuro Jobs Act, ovvero la delega sulla riforma del mercato del lavoro, che ora è all'esame del Senato, e staremo a vedere anche questo a proposito di riforme. Va bene, Ma è il momento di Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, ti abbiamo lanciato sulla scuola col ministro Giannini e ci sono tanti dettagli sulla scuola per l'appunto oggi sul Sole. Sì, anche perché guarda, c'è questa intervista al ministro Giannini, come ricordavi, ma poi sulla parte digitale, sai che Sole 24 Ore ha una vocazione digitale importante, che è confermata tra l'altro anche dai dati di oggi che ci danno come il quotidiano più diffuso a livello digitale, e nella parte appunto di Scuola 24, questo nuovo quotidiano verticale, così si chiamano, c'è l'intervista integrale al ministro Giannini che stavo leggendo poco fa. E Scuola 24 che parte da oggi, poi sarà sempre disponibile appunto in rete sul, da lunedì al venerdì. Ma io ti volevo segnalare una cosa, sai che forse si è sbloccato lo Sblocca Italia? Perché tu dirai l'abbiamo già fatto, no, dunque se ne è discusso in realtà a fine agosto e forse si è sbloccato. Stavo leggendo appunto Giorgio Santilli che racconta sul Sole 24 Ore di oggi le cose che entrano ed escono nello Sblocca Italia, perché appunto con quel nome è molto sbloccato, e forse si è sbloccato, cioè forse sono arrivati a un testo che magari va poi in gazzetta ufficiale, insomma queste cosa vuoi che siano, queste anticaglie normative che però sarebbero anche un po' essenziali per sapere se le misure ci sono o no. Comunque guarda, è tutto scritto sul Sole 24 Ore e questa volta ti sorprenderai, non è neanche nelle pagine di norme e tributi. È incredibile. No, l'evasione da norme e tributi. Ma sai, anche perché norme e tributi su un testo che va e viene, poi si trova a mal partito, come si diceva una volta. Lo sai che questa è la settimana decisiva per la TASI, non so se te ne eri accorto. Forse dando un'occhiata ai giornali, devo dire, noi da un po' che raccontiamo di questi possibili aumenti e come dire, anche oggi le cose sembrano confermare. No, la settimana decisiva, nel senso che entro domani bisogna deliberare e oramai è il tempo delle delibere e vedremo che cosa i comuni decideranno, soprattutto anche per le nostre tasche. A proposito di tasche, tu hai sempre i 2 euro? Sempre lì, come no? Oh, a disposizione. Perché guarda che questa settimana ti diciamo come spenderli, no, nel senso che, scherzo, questa settimana tra le tante novità editoriali ci sarà anche How to Spend It, cioè la versione italiana del Sole 24 Ore del magazine dedicato al lusso fatto da Financial Times, che ripresentiamo in una versione originale e essa ci sarà proprio questa settimana. 2 euro, insomma, qualche cosa ti potrai permettere. Di lusso non granché, però... Oppure tienteli lì perché da oggi, ma guarda quanto sono digitale stamattina, da oggi c'è anche disponibile il nostro ebook sulla contabilità, i nuovi principi contabili, l'OIC e l'Organismo Nazionale di Contabilità che ha modificato un po' di cose, lo trovi sul sito del Sole 24 Ore. È segnalato anche nelle pagine di norme e tributi, a dir la verità. Ah, vabbè, ma allora, che norme e tributi alla fine rientra sempre. Alla fine si cade un po' sempre lì, è lì dove ti porta il cuore. Ma volevo dirti anche, su norme e tributi, oggi parliamo ancora della valvola termostatica. Quella è ieri, è da ieri, guarda. Sì, ti ho sorpreso con la valvola termostatica. Sì. Però guarda che oggi c'è, come ogni martedì, la pagina di condominio, si ritorna sulla vicenda del riscaldamento centralizzato e obbligo di valvole termostatiche, quindi ti consiglierei, caro Alessandro, di dare un'occhiata, come sempre, come tutte le mattine, a norme e tributi. Leggi le pagine di norme e tributi, ti farà bene. Una cultura termostatica. Ottimo. La valvola termostatica, guarda, non mi sottovalutare la valvola termostatica. No, ma quando mai? Tra l'altro è anche suscettibile, quindi ecco. Non vorrei che poi la valvola termostatica mi facesse uno scherzo a casa, no, per carità. Ecco, mi raccomando, massimo rispetto per la valvola termostatica e come ogni mattina, naturalmente, certo. Traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, tiene ancora banco sui giornali il divorzio ormai sancito anche per le dichiarazioni ufficiali di Sergio Marchionne tra Montezemolo e la Ferrari. Come scrive il Sole 24 Ore in Finanza e Mercati, divorzio Marchionne-Montezemolo con Laura Galvagni. Il giorno dopo la disfatta della Ferrari a Monza, il CEO, quindi il numero uno di Fiat Chrysler Sergio Marchionne va a Maranello. Ci va ufficialmente per partecipare al consiglio di amministrazione della Philip Morris, ma nessuno può escludere, anche se non arriva conferma, che il manager abbia incontrato Luca Cordero di Montezemolo. D'altra parte, Montezemolo, più volte candidato alla guida della nuova Alitalia Etihad, era lì a Maranello e ha visto i piloti Alonso e Raikkonen, oltre ad alcuni collezionisti di auto storiche, per un progetto sulle Ferrari classiche. L'aria che si respirava, quella dei grandi cambiamenti. Sebbene la tempistica non sia stata ancora definita, il divorzio tra Montezemolo e La Rossa si compirà. Tra l'altro si parla o di giorni imminenti, quindi giovedì 11 settembre, addirittura quindi entro un paio di giorni, oppure ottobre. Si parla anche di ipotesi dello stesso Marchionne a capo della Ferrari, alla guida della Ferrari. Ci sono le critiche del patrono della Tozza, Diego Della Valle, nei confronti di Marchionne, cioè dire che Diego Della Valle è anche socio di Montezemolo in NTV, quindi nei treni. Della Valle ha definito Marchionne è un furbetto cosmopolita che fa annunce e promesse a vuoto agli italiani e ai suoi dipendenti, e lo ha invitato a pagare le tasse in Italia dove le paga i lavoratori Fiat. Insomma, anche uno scontro al calor bianco dal punto di vista istituzionale nell'economia e nell'alta finanza. Con racconta il Corriere della Sera, in un articolo a pagina 6 di Federico De Rosa, sotto all'ipotesi presidenza Ferrari proprio affidata a Marchionne, si consolida sempre di più effettivamente la candidatura di Montezemolo invece per la nuova Alitalia. Mancano ancora diversi tasselli, alcuni importanti, ma grosso modo il puzzle è composto e il pezzo principale riguarda proprio Montezemolo, anche se non c'è ancora il crisma dell'ufficialità. Per il presidente della Ferrari sarebbe già pronto il posto più alto nell'organigramma della nuova Alitalia era Etihad. Si tratta anche di capire, tra l'altro, quanto saranno i tempi dell'uscita di Montezemolo dalla Ferrari, e anche sul Sole 24 Ore e sul Corriere si parla anche dei costi da valutare della buona uscita, una buona uscita che si aggirerebbe sui 50 milioni di euro, questo almeno scrivono i giornali. Allora, noi alle 9 parleremo anche di questa guerra di religione, come ha scritto Giuliano Ferrara. Apriamo gli occhi un po' in stile fallaciano, no? Oriana Fallaci, ha scritto Giuliano Ferrara due giorni fa in un editoriale molto veemente. La reazione più giusta nei confronti di questa guerra di religione è usare una violenza molto superiore a quella che i terroristi islamici applicano a noi. Quindi, come dire, una ricetta molto molto brutale. Non c'entra niente la religione, questo almeno a detta del superiore dei Saveriani in Burundi, padre Mario Pulcini, nella tragedia che ha colpito tre suore che sono state trucidate in una forse rapina nel loro convento, ma in realtà il movente ancora non si sa. Certo, dice padre Mario Pulcini, intervistato da Repubblica, la religione davvero non c'entra nulla. In questo paese sconvolto dalla guerra ci sono giovani allo sbando e troppa violenza. Stanno cercando un balordo, forse lo hanno già catturato. Tre suore uccise, tutti i giornali raccontano il dramma. Il Corriere della Sera, le tre missionarie oltraggiate e uccise. L'assassino ha abusato di loro, anche su questo c'è una smentita da parte del confraternita dei Saveriani a dire non è vero che siano state violentate, come dice invece la polizia burundese. Tra l'altro c'è anche il giallo, pare che una delle tre suore sia stata addirittura decapitata. Certo, ci sono i contorni di cercare di capire che cosa sia successo veramente in quella che sembra una rapina finita male. Anche qui però c'è da far notare, secondo la polizia del Burundi, che in realtà non ne sono stati rubati neanche gli orologi dal convento, dalla casa convento dove si trovavano, e quindi anche questa versione è veramente un po' strana. Comunque, sempre il superiore dei Saveriani, che si dice ovviamente sconvolto e scioccato, padre Mario Pulcini, intervistato da Repubblica, dice avevo detto a un certo punto una delle tre suore uccise ha trovato le altre due, le ha trovate uccise in convento, ma hanno deciso di rimanere a dormire sempre in quel convento, mi dovevano ascoltare, ho detto che quell'assassino era ancora in giro e poi infatti mi hanno svegliata in piena notte. Erano da poco passate le due, stavo scrivendo il resoconto del brutale duplice omicidio quando mi chiama una suora e dice: l'assassino è ancora qui nel convento, sentiamo dei rumori, venga. Io sono andato da loro, il convento è solo una cinquantina di metri, trovo la porta chiusa a chiave ma non sento nulla di strano e allora ritorno nella mia stanza, ma mi richiamano e la porta che prima era chiusa era aperta e ho trovato anche la terza suora, cioè quella che aveva trovato le prime due suore e mi aveva avvisato, anche la terza suora nella sua stanza, morta. Questo resoconto di padre Pulcini affidato a Repubblica. Tra l'altro, a proposito invece di guerra di religione, colpisce ciò che Antonella Del Prino racconta sul Giornale a pagina 6. Racconta la prigionia di Theo Padnos, che è stato ostaggio degli integralisti islamici in Siria e poi liberato. In Siria la mia odissea, tra i miei carcerieri ce n'era anche uno che parlava italiano. E racconta: parlava italiano perché mi ha detto che era marocchino di Casablanca, ma prima di combattere ad Aleppo era stato qualche anno in Italia, dove ci sono ancora suo fratello, la moglie e un figlio, credo a Roma. E beh, certo, questa del Giornale è un'intervista che rilancia la minaccia in qualche modo anche per l'Italia. Il racconto del giornalista prigioniero dai terroristi di Al-Qaeda per 22 mesi rafforza, secondo il Giornale, il rischio che cellule jihadiste siano addestrate anche nel mondo occidentale, in questo caso soprattutto in Italia. Vabbè, ma siamo al momento conclusivo, al momento dell'articolo La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi vince! Sul Messaggero, Maria Latella che racconta in mezza pagina il galà delle star a Firenze con la First Lady Agnese, orfana del marito che era a Roma a lavorare, Matteo Renzi. A Firenze sperimentano con che cosa? Il Celebrity Fight Night, evento benefico voluto da Andrea Bocelli con George Clooney, la fidanzata male, poi un profluvio di racconti sui vestiti, sui vestiti, sul Messaggero. Vabbè, la carta costa, ma non se ne accorgono. Perché sei così cazzetto?